Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti e benvenute al professor Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università di Milano, che inizia la giornata insieme a noi. Professore, buongiorno. Un piacere essere con voi come sempre. Professor Pregliasco, su Lancet è stata pubblicata una sorta di classifica dei provvedimenti più efficaci per limitare il contagio. Vogliamo prenderli in esame? Sì, di fatto è il primo studio, ovviamente con qualche margine di errore, che va a vedere l'effetto a 28 giorni di alcune modalità con cui i vari paesi hanno attuato in modo diversificato il lockdown, valutando l'effetto a 28 giorni. Di sicuro l'elemento principale, con una riduzione del 24% di quella che è il tasso di il famoso RT, è quello di vietare gli eventi pubblici. A seguire la chiusura delle scuole, una riduzione del 15%, la chiusura degli uffici del 13%, limitazioni agli spostamenti del 7% e l'invito a restare a casa del 3%. Quindi contributi che devono essere visti in una serie di interventi organici, come anche sono stati prospettati in Italia. Professor Pregliasco, secondo lei quando le misure restrittive che sono state prese avranno una ricaduta sulla curva dei contagi? Sono misure che sono state in qualche modo sartoriali, con l'indicazione generale e anche una raccomandazione ai cittadini, di fatto, attraverso queste chiusure, di limitare i contatti non essenziali. Purtroppo, colpendo tristemente, questo il governo dovrà tenerne conto, alcune filiere di attività, perché per noi uscire la sera è un piacere, ma ovviamente chi ci garantisce momenti piacevoli lo fa per lavoro, e quindi con effetti che vediamo anche di protesta. Ma al di là di questi aspetti, appunto, nell'applicazione pratica, io credo che appunto lo spirito è: riduciamo per quanto possibile tutto ciò che è superfluo o rimandabile. Io credo che l'efficacia la si possa vedere non prima di 15-20 giorni, e io spero che ciò che è stato attuato possa essere un elemento per ridurre la diffusione, e quindi non costringere ad altri interventi ancora più impopolari, ancora più tristi, che potrebbero essere necessari in caso di mancanza di efficacia di questo intervento. Professor Pregliasco, entriamo nelle nostre case. In presenza di un positivo, cioè con diagnosi di tampone, quali sono le attenzioni e le precauzioni proprio nel quotidiano che si devono seguire? Sì, il problema è grande, perché coinvolge in questo momento tantissime famiglie. La quota più rilevante di casi avviene per trasmissione in famiglia, 70% circa, individuando un primo caso indice che lo ha acquisito sul lavoro, nel contesto esterno. Quindi la casa diventa un luogo potenzialmente a rischio. Deve esserci una azione di igiene generale, un'attenzione molto alta alla gestione del bagno, perché il bagno può avere una contaminazione da goccioline respiratorie, anche da fluidi organici, perché un rischio anche di trasmissione fecale c'è, e quindi davvero una grande igiene al bagno, un'attenzione nei momenti di convivenza, in particolare per quanto riguarda la fruizione del cibo, che sarebbe meglio farlo ovviamente distinto, e purtroppo considerare la necessità di utilizzare le mascherine nei momenti di contatto, e trovare, compatibilmente con la dimensione del nostro appartamento, perché non tutti abbiamo un attico, nemmeno io, e quindi dobbiamo trovare un qualcosa che purtroppo in questo periodo di isolamento ci tenga più distanti e ci faccia attuare quelle disposizioni ben chiare di uso mascherina, di disinfezione delle mani e di distanziamento il più possibile. Professor Pregliasco, come si devono comportare i familiari? Che cosa devono fare? I familiari vengono considerati contatti stretti, e quindi anche loro purtroppo devono seguire le indicazioni di isolamento e di quarantena fiduciaria. e quindi limitare o potenzialmente appunto considerare che devono essere particolarmente attenti, sorvegliare le proprie condizioni cliniche e ovviamente mettersi in contatto con il proprio medico di fiducia, medico di famiglia, per consulenza e valutazione del da farsi via via che la situazione dovesse in qualche modo rendere necessario una valutazione clinica e procedere ovviamente nei tempi previsti all'esecuzione dei tamponi anche per poter garantire in qualche modo l'uscita dalla quarantena. Professor Pregliasco, parlando di tamponi, sappiamo che ci sono i tamponi molecolari e i tamponi antigenici. Che differenze ci sono e chi deve fare quale e quando? Allora, i tamponi molecolari, i primi messi a punto, sono gli elementi di riferimento e sono l'eventuale anche esecuzione per confermare, per esempio, i risultati positivi di un tampone antigenico. Il tampone antigenico utilizza lo stesso tipo di prelievo, ma ha una velocità di risposta maggiore, una maggiore semplificazione dal punto di vista appunto dell'esecuzione. Può essere interessante per il monitoraggio di pazienti appunto contatti stretti durante il periodo, i 10 giorni di valutazione nell'ambito della quarantena e in ambito di screening, come si dice, cioè in contesti scolastici o lavorativi, per poter individuare meglio la presenza di eventuali focolai. E interessantissimo sicuramente l'utilizzo in pronto soccorso per poter orientare meglio nei vari percorsi oggi distinti fra pazienti Covid e non Covid. Quindi, professore, abbiamo parlato di famiglie e di familiare, il tampone antigenico è sufficiente per rientrare al lavoro o comunque in comunità dopo i giorni di quarantena per le persone che hanno avuto un contatto stretto di un caso positivo, un familiare positivo, è corretto? È un elemento di semplificazione che renderà più rapido, veloce, soprattutto appunto, la prassi e la validazione della fine della quarantena. Professore, come si deve comportare una famiglia in cui è stato diagnosticato un caso di Covid-19 nei confronti degli altri condomini? Sì, è importante considerare che la privacy non obbliga, diciamo, questa comunicazione o mettere un cartello fuori dalla porta. Abbiamo visto situazioni di intolleranza anche non solo per soggetti positivi, ma anche per operatori sanitari, ovviamente giustamente ritenuti più a rischio di altri nel passare nell'androne o utilizzare l'ascensore. Io credo che la responsabilità complessiva deve essere, a prescindere dalla presenza o meno, nota o non nota o sospettata, di un nostro condomino positivo, ma deve essere quella di un'applicazione di protocolli di buon senso rispetto all'igienizzazione dell'ascensore, che sicuramente è un luogo a rischio, e di un'igienizzazione, di un utilizzo ovviamente a seconda della dimensione, con un singolo persona o secondo i limiti prescritti, e sicuramente un'attenzione all'igiene che doveva esserci anche nel passato, ma che ora forse vede, come dire, una maggiore come dire, necessità di attenzione. Direi che le prassi adottate dal punto di vista generale, se ben condotte anche rispetto allo smaltimento dei rifiuti, questi non rappresentano particolari problemi, secondo una prassi di buon senso e secondo l'indicazione. Professor Pregliasco, in presenza di sintomi, nell'attesa di fare il tampone e di ricevere eventualmente una diagnosi, quali farmaci posso assumere? Sicuramente appunto fondamentale un'individuazione precoce, quindi una presa in carico, anche per rasserenare i pazienti ed evitare quello che in questo momento iniziale si sta vedendo come un eccesso di richieste di 118, quindi di trasporto in ambulanza e conseguentemente di visita in pronto soccorso. Quindi nelle prime fasi di malattia, in gran quota direi, in quelle che decorrono in modo assolutamente tranquillo o comunque con un'influenza magari anche, diciamo, pesante dal punto di vista clinico, sono gli approcci dell'influenza, quindi paracetamolo, altri antinfiammatori, proprio per ridurre l'intensità dei sintomi. Poi successivamente il medico può personalizzare la cura, ma no fai da te rispetto all'uso di cortisonici piuttosto che di antitrombotici, che sono ovviamente su indicazione medica. Grazie professor Pregliasco per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. Arrivederci a tutti. Bene, per oggi è tutto, come sempre vi aspetto dopo il GR delle 12 per notizie che arrivano dal mondo della ricerca. Mi raccomando, non mancate anche i nostri appuntamenti con le video interviste sulle pagine Facebook di Obiettivo Salute. Buona giornata.